Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, perdonate la ripetitività di informazioni di servizio che però servono a tutti noi. Allora, la prima è la nostra mail. unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale potrete e potete rivolgervi per segnalare i vostri casi di natura generale. La seconda informazione riguarda il nostro sito radio24.it, potrete scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione quasi in tempo reale, potrete abbonarvi, potrete anche seguire interattivamente il sito, potrete anche dialogare con alcuni conduttori, tra i quali il sottoscritto, perché troverete il mio blog Guardie o Ladri, lì potrete, come state già facendo numerosi da anni, come parlare, suggerire, insultarmi, fate ciò che volete. Allora, un nostro radioascoltatore di Bassano del Grappa, a proposito appunto dell'importanza della mail che prima vi ho ricordato, ci ha scritto una mail molto interessante, devo dire, che probabilmente è vero, come lui dice nella sua lettera, interessa decine di migliaia di persone, vale a dire un PostaPay, cioè una carta di credito ricaricabile delle Poste Italiane, con il quale ha avuto un disturbo non mica da ridere, perché pur essendo stata la sua carta ricaricata per regali che ha ricevuto da persone che probabilmente ben conosce, amici, eravamo sotto Natale, ad un certo punto si è vista la sua carta bloccata. Sarà una cosa che è successa a lui, ad altri, avrà sicuramente un fondamento normativo e giuridico, adesso lo scopriremo. Fatto sta che il nostro radioascoltatore l'ha vissuto come un vero e proprio abuso, anche per una mancata interlocuzione con Poste Italiane. Allora, oggi noi di questo parliamo con il nostro radioascoltatore di Bassano del Grappa, Celeste Basta. Buongiorno Basta. Buongiorno. E con la responsabile dei nuovi canali di BancoPosta, la dottoressa Fulvia Vaudo. Buongiorno dottoressa Vaudo. Buongiorno a voi. Allora Basta, ci racconti che cosa le è successo? Allora, intanto voglio premettere che da qualche giorno il mio problema della carta PostaPay è risolto. Cioè, ecco, a pensar male qualche volta si fa peccato, diceva una persona molto famosa in Italia, però qualche volta ci si azzecca. Chissà che non sia servito anche l'intervento di Radio 24. Vabbè, il 22 novembre scorso alcuni amici si trovano a casa mia e decidono di farmi un regalo, perché avevo bisogno di contante per un periodo. E volevano, insomma, darmi un po' di denaro, così. Allora volevamo utilizzare la ricarica online della mia carta PostePay dal mio computer. Abbiamo fatto 5 ricariche nel giro di pochi minuti, tutte andate a buon fine. Questa operazione, dopo capisco che può essere stata un'operazione sospetta dalle Poste, poi vedremo per quale tipo di fenomeno, insomma. Il giorno dopo vado a prelevare a sportello i miei soldi e l'impiegato mi dice che la carta è bloccata. Successivamente vengo a sapere che anche quella dei miei amici avevano subito lo stesso trattamento. Quindi tanto la sua, che aveva ricevuto il versamento, quanto quella di coloro i quali le avevano versato dei soldi. Esatto. Da allora comincia il mio calvario di ore di attesa al telefono del call center nella speranza di contattare qualcuno. E quando ci riesco non sono in grado di dirti altro che inviare raccomandata alla centrale delle Poste e attendere la benevolenza delle Poste. Benissimo. Mi rivolgo di nuovo all'ufficio postale di Bassano del Grappa. A quel punto voglio parlare con qualcuno, insomma, direttamente. L'impiegata si è resa, per la verità, molto disponibile e dispiaciuta dell'accaduto. Almeno lei era riuscita a contattare qualcuno ed avere anche l'elenco dei miei ultimi movimenti della carta, quindi comprese le ricariche. Mi ribadisce che l'unica cosa da fare è inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno e chiedere lo sblocco della mia carta. Benissimo, allora la sua storia è chiarissima. Io la interrompo qui perché vorrei partire dalla provocazione. Dottoressa Vaudo, noi non c'entriamo niente, vero, nello sblocco della carta del dottor Basta? No, voi non c'entrate niente. Lo sapevo, e guardi, ne ero convinto. I miracoli accadono sempre qualche giorno prima che Radio 24 si interessa del caso, ma non c'entriamo mai niente. Diciamo che avete, questo mi fa piacere. Avete tempestività. Sì. Prego. Allora, io volevo un attimo inquadrare il problema che tra l'altro il nostro cliente titolare di una carta PostePay ha in qualche modo toccato. La carta PostePay e le carte PostePay degli amici del appunto del nostro cliente sono stati bloccati premetto, faccio un riferimento formale perché era quello che avevate anche citato voi, sono stati bloccati così come prevede una disposizione contrattuale specifica del nostro contratto, ovvero esclusivamente per finalità di tutela del cliente, per ragioni di sicurezza, le carte PostePay possono essere bloccate senza necessità di preventivo preavviso del richiedente. E questo ora, qui probabilmente è accaduto, questo blocco improvviso, perché l'operazione era sospetta, cioè poteva esserci il rischio di un'operazione sospetta o di riciclaggio o di chissà che cosa. Sì, se, ecco. se lei mi consente, magari sfruttiamo anche l'opportunità, certo, di una trasmissione ascoltata come la vostra, certo, di fare anche un'informativa. Prego, prego, la faccia. Della clientela. Gli istituti finanziari sono stati spesso oggetto nei confronti dei propri clienti di un fenomeno che ormai è ampiamente conosciuto, ma mai poi così tanto, cioè quello del phishing, ovvero la possibilità di sottrarre anche in buona fede, spesso con email truffaldine o fenomeni analoghi, quelli che sono le credenziali dei titolari di una carta, no? Facendo supporre di essere l'istituto di credito, si chiede al cliente in buona fede di fornire, di certificare delle transazioni, fornendo poi le credenziali della carta, che il cliente spesso in buona fede, convinto che sia veramente il proprio istituto di credito, fornisce. Ecco, no, ma di questo qui non abbiamo parlato, e fa onore a Poste Italiane, così come gli altri istituti finanziari, l'intervento proprio che serve per tutelare ovviamente il cliente. Però vede, dottoressa Vaudo, secondo me qui il punto non è tanto il fatto che sia stato bloccato il ricevimento di soldi e quindi chi li ha ricevuti e anche coloro i quali li hanno versati. Quello che a me lascia sempre molto molto perplesso, ed è per questo che io non credo alla sua white lie, la chiamerebbero gli inglesi, alla sua bugia bianca, quando dice che noi non c'entriamo niente nell'aver sbloccato questa pratica, intendo dire, quello che a me colpisce è il mancato dialogo tra un'istituzione e un cittadino. Abbiamo sentito Bassa che diceva che non riusciva a parlare con Poste Italiane e capire che cosa stava accadendo. Poi, miracolosamente, ma Radio 24, umile com'è, non c'entra assolutamente nulla, la situazione si sblocca. Ma allora, dottoressa Vaudo, voi il rapporto con il cliente lo volete, lo cercate? Oppure no, non serve, serve soltanto per, come dire, far applicare e rispettare le leggi, che è una cosa che vi fa onore, però il cliente sta lì e dice: ma che sta succedendo? Sì, guardi, in realtà quello che per noi è più importante, credo debba essere un po' un obbligo anche degli istituti di credito e finanziari, deve essere prima di tutto quello di tutelare i risparmi dei propri clienti. Ora, nel caso specifico le dico, sicuramente ci può essere stato un peccato di comunicazione, però lo inquadrerei nel corretto fenomeno. Allora, secondo i nostri sistemi di monitoraggio, il cliente è stato configurato, ma per una tipologia ben precisa di operazioni, come un cliente sospetto che poteva aver recuperato degli importi da titolari di altre carte. Come lui stesso ha detto, le operazioni sono state fatte in maniera un po' anomala da uno stesso indirizzo IP, cioè sono state effettuate da una stessa macchina, il che è un po' è una prassi anomala. L'allarme, no, il regalo dovrebbe essere, no, fatto da indirizzi IP diversificati, ciascuno associato in qualche modo al titolare della carta. In questo caso abbiamo avuto un allarme ben preciso. Lei giustamente poi mi replica: sì, benissimo, questa è un'operazione di prevenzione che fa onore a Poste Italiane e che deve tutelare i suoi oltre 5 milioni di titolari, certo, di Poste Pay, tra cui il chi le parla e anche i suoi amici. Giustamente, quello che sicuramente in qualche modo penalizzato è sicuramente la tempistica di risoluzione della tematica, che ovviamente non richiedeva il contatto con chi Poste Italiane riteneva e sospettava in qualche modo di aver operato in maniera non corretta, che quindi è il beneficiario delle somme, ma piuttosto l'esigenza di entrare in contatto con i titolari delle carte dello strumento. E va bene, e comunque insomma a questo punto voi lo avete fatto, il caso è stato risolto, direi di che posso nel ringraziare i miei ospiti concludere dicendo: fate attenzione a questi movimenti finanziari, usate cautela, leggete bene le condizioni contrattuali, perché altrimenti si può incorrere, non volendo, in incidenti o comunque, come dire, dispiaceri burocratici di questo tipo. Grazie agli ospiti ancora, in regia Filippo Aureggi, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento per una nuova puntata a domani. Buona giornata.